yet to achieve. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Eccoci qua dunque, Radio Onde Rosse 87.9 in modulazione di frequenza, sono le 21.06, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 8 aprile del 2026. Trasmissione che andrà avanti sino alle 22.30 circa e poi ci sarà 25 o'clock che andrà a concludere fino alla mezzanotte dintorni. Andiamo a salutare un po' una serie di affezionati già collegati. Abbiamo Mariano Niterri qui a Roma, Jean-Claude Bertone Val d'Aosta, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, un saluto a Marcio Gronge. Salutiamo anche Anna qui a Roma. A Berlino abbiamo Sara Boy, un saluto a Lupsi con Lucia Cagliazza, Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria. Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, Gabriele Punch di New Horizon Tron, Marco Magia di Progetto Sonoro, un saluto anche a Francesca Trozzi di God Dance, realtà gothic qui di Roma, Carbo Carbo Croma, Electro Goth Veneto. E allora andiamo ad iniziare andando a riprendere l'ultimo lavoro proprio di Gabriele Panci e del suo progetto New Horizon Tron. E quindi più informati e attenti sanno che ci inoltreremo nella criptica ambient di questo artista proveniente da Palestrina, qui alle porte di Roma. Questo ultimo lavoro esce per la francese Cyclic Low, si sviluppa sulla lunghezza di 2 CD e proprio dal secondo volume andiamo ad estrarre una lunga traccia di apertura. Una traccia di apertura che porta il nome di Gate Number 3, The Space Between the Worlds. un vero e proprio viaggio negli abissi più profondi, questo intrapreso da New Rising Throne di Gabriele Panci, con questo monumentale doppio album The Journey to the Reach the Father, dedicato proprio alla figura paterna dello stesso Gabriele. Gate number 3, The Space Between Worlds. Tra le migliori espressioni del genere, tra i migliori sicuramente in Italia, ma in generale ottimi livelli, al pari di per esempio Horizon Dead, giusto per citare magari un riferimento che credo sia presente nella musica di Gabriele Panci. Saluto intanto Bruno Pallotto di Birudrum, grossa realtà electro proprio qui di Roma. Lo abbiamo salutato ad inizio trasmissione, l'amico Marcio Gronge, che insieme a Luca Giuoco ha prodotto un album molto interessante, un vero e proprio, tra virgolette, disco match, come lo ha proprio nominato Marcio Gronge. Un confronto tra scuole di pensiero in parte differenti, ma che vanno d'accordo egregiamente in questo appunto album, Il Gioco di Gronge, che esce per Settola di Maiale, una coraggiosa label italiana. Sentiremo dunque le strutture sperimentali ideate da Luca Giuoco, e anche, diciamo, l'ironia e l'essere così visionario di Marcio Gronge, e ci andremo ad ascoltare, come la scorsa settimana, anche stasera, tre brani: Fossile, Lattiginoso e Infettivo. dotandolo di soluzioni sonore alquanto audaci. Alfieri della sperimentazione, Luca Giuoco e Marcio Gronge, in questo Giuoco di Gronge, reperibile sulla piattaforma Bandcamp. E in questa piattaforma c'è anche un'interessante definizione del percorso che ha portato alla costruzione di questo bellissimo lavoro, uscito proprio nel 2026, che vi invito ad andarvi a leggere. Io l'ho già fatto la scorsa settimana. E dunque un saluto, un grosso abbraccio a Marcio Gronge e Luca Giuoco. Ricordiamo, un album costruito a distanza. Forse non si sono mai visti proprio Marcio Gronge e Luca Giuoco, ma il prodotto finale, nonostante la lontananza, diciamo, è un album incredibilmente bello, credo al momento tra i migliori degli ultimi tempi per quanto riguarda un certo tipo di sperimentazione. Ricordiamo anche che il buon Marco ha ritirato fuori i Gronge in versione diversa comunque rispetto a quelle di tanti anni fa, improntati più sull'impropop, l'improvvisazione, diciamo, dello stesso Marco, con una schiera di ottimi musicisti che propongono una mistura molto interessante di rock, robustissimo rock, sperimentazione e anche qualche elemento di jazz. Un buon concerto lo hanno fatto lo scorso marzo qui a Roma. Ci tiene da precisare Marco che questi suoni che ascoltate ora sono emessi dal mio stomaco gastritico e registrati con un cellulare scadente. Ed è vero, come dice il buon Marco. Chiaramente ce lo andremo a risentire anche la prossima settimana, un album che ho intenzione di mandare in tutta la sua interezza, ne vale la pena. E adesso, da due album, diciamo, di recentissima uscita, facciamo un grosso salto all'indietro, appunto di circa 40 anni, per andarci a risentire questa, e a sentire, anzi per la prima volta qui a Prove Tecniche, una storica compilation dal nome The Last Supper, che uscì nel 1984 anche con la musica Maxima Magnetica, una interessante esperienza di quegli anni proveniente da Napoli. Artisti che allora scrivevano veramente la storia della musica industrial, tra cui SPK, Smash, Barbone Squawk, Test Department, Muslin Goes. E questa sera invece ci andremo ad ascoltare due nomi, diciamo, meno noti e anche un po', soprattutto Gorilla Active, un po' diversi, già che quest'ultimi si esercitavano in una, allora, una mistura di elettronica e new wave. Di loro ci ascolteremo due sparatissime Spiegelbilde e otto Spornos, e poi un ultra sotterraneo progetto norvegese dal nome Authentic Film, dei quali ci ascolteremo Polaroid.

Compilation, direi dire molto varia, questa The Last Supper, l'ultima cena della musica massima magnetica. Ricordo un nastro, una cassetta che uscì ben 42 anni fa e che naturalmente conserva quel fascino vintage dell'epoca, con dei nomi abbastanza noti e altri meno, come i tedeschi Gorilla Active con la loro miscela di follia quasi daffiana, e più seriosi e affini al death ambient norvegese Authentisk Film. Anche questa compilation andremo a scandagliare il prossimo mercoledì 21.45, questa è Radio Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30, e andiamo avanti con un'altra compilation però molto molto molto più recente. Dietro c'è lo spirito e l'anima, l'azione di Raffaele Pezzella. Che nel 2025 stampava questa Ubiquitus, ispirata all'opera di Philip Dix. Music inspired by Philip Dix Dystopias, questo è il nome esatto di questo compendio. Anche qui ci sono sezioni di musica elettronica, per esempio un inusuale Bruno Dorella in versione solista, senza ovo dunque sigillum S, con questa traccia dal nome Ike Castle, e poi il finlandese Varistima, o Varistima che dir si voglia, con The Nature of Reality. Intanto saluto Woodlus Irin, storico progetto industrial piemontese, e anche Eugen Bintras, fondatore della Det in Venice, realtà industrial e sperimentale di Venezia per l'appunto, nonché anche musicista in gin ed altri progetti. Eccolo qua dunque Baristima, The Nature of Reality. Thank you. non poteva che confermarsi un'ottima compilation questa Ubiquitous, dedicata diciamo a Philip Dick, che vede raccolta una serie di artisti a noi anche cari. Mariolino Stancato per esempio fa parte di questa schiera, tanto per citarne uno. Questa sera Bruno Dorella con I Castle e Baristima con The Nature of Reality. Tracce abbastanza diverse tra di loro, una compilation dunque dinamica, diversificata, che a me fa un po' il punto della situazione, come tante altre, della salute direi buona della scena sperimentale mondiale a questo punto, già che Pezzella arriva con lo sguardo molto ma molto lontano attraverso tutte le sue etichette. E invece noi andiamo in Spagna con Esplendor Geometrico, con El Pulso dell'Acero, Shinkansan. Ultimo lavoro uscito proprio all'inizio di quest'anno, il classico portato di tribalismo industriale, a tratti anche glaciale, devo dire. Questa sera ho scelto un paio di tracce, L'Eroe del Trabaglio 2026, dunque una versione diversa di un brano già noto che uscì ad inizio carriera e poi in prossimità.